La cicogna nera. Quasi le 21.30, ben trovati a tutti gli ascoltatori alle sonorità popolari contemporanee della Cicogna Nera. Come ogni giovedì approfondiamo, ci ascoltiamo un po' di musiche del mondo. La scorsa settimana ci siamo lasciati assaporando il progetto appena uscito di una grande voce brasiliana che arriva da San Paolo, Seu. E questa sera stiamo invece riaprendo con un lavoro precedente del 2009, uno dei migliori progetti del Brasile contemporaneo. E nunca fui. Volta pra casa assim, feito trapo, nada lhe prende, e ainda quem tente é feita de gato e sapato sem mais. Se eu lhe contar por onde andei, que o sol amanheceu mais de uma vez, mas ainda assim não clareou, e a saudade bateu, e no peito ficou. Sem mais. Oh, vira nada. Não, eu não sou. Não me importa. Vou me contar quem tu queres. Hoje eu vou me achar e depois vem. Me perder. Ei, nós. Seu insieme a quella di Luis Melodia per questa Viralata, che era una delle canzoni, delle fantastiche canzoni contenute in Vaga Rosa. Vaga Rosa era del 2009, è stato uno dei migliori album di tutto il Brasile contemporaneo e significa vado lenta. Ecco, lei andava lenta e sapeva mescolare perfettamente la musica popolare brasileira con, come vi ho già detto altre volte, con i generi a noi più conosciuti, soprattutto in quell'album il reggae, il dub, l'elettronica, che qui ritroviamo anche nel nuovo progetto che ora andremo a sentire. E questo, insomma, volevo farvi ascoltare quello precedente per darci un po' un sapore di confronto anche per voi, che adesso andiamo ad ascoltare invece Caravana Sereia Bloom, che è appena uscito il 2 aprile per la Six Degrees o qualcosa del genere. Intanto 0649 1750 è il numero della nostra diretta, 24 ore al giorno potete chiamarci, oppure la cicogna nera @ondarossa.info se volete scriverci. Questo Caravana Sereia Bloom che ora andiamo ad ascoltare e di cui vi ho già fatto sentire il singolo in chiusura della puntata scorsa, che era Retrovisor, sembra che un po' a un certo punto manchi qualcosa, no, di freschezza e di invenzione che invece c'era in Vaga Rosa, però ovviamente queste sono mie supposizioni. Però intanto andiamoci a sentire la seconda canzone, che si chiama Amor de Antigos. vem de longe, da morada da memória. Junto construímos história no calor de fim de tarde. Eis que arde na lembrança de outrora. Vem comigo, mundo afora, em qualquer lugar que eu ande. Nhonho bebeu um gole de cada pó. Caravana Sereia Bloom, che è un titolo che è quasi una cozzaglia di parole. Lei ci dice che ha preso Sereia dal titolo di una canzone e Bloom che è un termine contenuto in un'altra canzone. Poi l'ha messa insieme e davanti ci ha messo Caravana, che praticamente è l'omaggio che Seu ha voluto fare a un film che si chiama Caravan Holiday. Anzi no, l'omaggio è a Caravan Holiday. Il film si chiama, leggo ora, Bye Bye Brasil, e praticamente il titolo di questo album è dedicato a questo film brasiliano che parla di un mago imbroglione. Racconta la storia di questo mago, c'è scritto anche signore e gypsy, che a un certo punto sclerano, c'ha l'illuminazione e si innamora dell'on the road, e quindi prende questo stile di vita, prende sua moglie che si chiama, vediamo se la ritrovo, vabbè non è importante, comunque prende, ah eccola, Dasdu o Dasdo, prende questa moglie incinta, se la carica e inizia questo stile di vita on the road, Bye Bye Brasil. E dunque Seu ha fatto questo album di 12-13 tracce molto molto compresse, 2-3 minuti a traccia, 35 minuti tutto l'album totale, che arriva anche questo da un viaggio on the road. Infatti lei ci dice che tutti i file, le proto canzoni, diciamo, no? Prima che avessero questa forma definitiva, erano contenute su un file, su una cartella del suo computer, che c'era proprio scritto Studies on the Road, nel suo viaggio nel nord-est, che è il nord-est brasiliano, dove siamo stati tutta la puntata scorsa, e che praticamente riprendiamo proprio da qui. Magari le altre musiche che sentiremo dopo arriveranno anche da questa zona, e anche Seu, che è di San Paolo, però Questo album è uscito proprio nell'ispirazione che ha avuto in questo stato brasiliano, e anche il produttore e marito produttore anche in questo album, che si chiama Gui Amabis, dovrebbe arrivare o da Salvador de Bahia o da Recife, comunque anche lui del nord-est. Un sacco di collaborazioni, veramente un sacco di collaborazioni in questo Caravana Sereia Bloom, che va da Pupillo, che è il praticamente, intanto salutiamo una nostra compagna che sta entrando in studio, ma da Pupillo che è il percussionista dei Nakao, Nasao Zumbi, se non mi ricordo male, e poi c'è Fernando Catatau, ci sono tra virgolette gli elettronici, Lucas Santana che arriva da Salvador de Bahia, e Curumin invece forse paulista come Seu, e che ecco, e che danno il contributo, formano questo album, e non sono turnisti come spesso, no, capita nel nostro mondo occidentale, che per i progetti di solisti c'è il cantante, cantautore che poi prende i suoi turnisti e se li porta in giro a fare l'album. Lì in Brasile ogni album è fatto da grandi personaggi che collaborano alla riuscita di un album e contemporaneamente no, guardano al proprio io, fanno i loro progetti, sono tutti dei grandi, no, dei grandi così cantautori, idealmente ognuno fa il suo grande progetto, compreso Curumin, compreso Lucas Santana, che ha fatto un album bellissimo lo scorso anno o due anni fa, molto molto apprezzato in Occidente. E allora ancora c'è Lucio Maia, Lego Denghi, c'è Francia, Tiago Gomez, vi ripeto la produzione è del marito Gui o Gui Amabis, mentre nel precedente Vaga Rosa, forse questo lo scarto, era la produzione del grande Beto Villares, e lo scarto forse è proprio questo, che Seo ha fatto un occhiolino un po' troppo un po' troppo audace al mercato globale e soprattutto occidentale, e si è perso quasi completamente il sapore della musica popolare brasileira. Questa secondo me è la canzone migliore del disco, e non a caso è una tra le due cover. Seu mi perdonerà che ne sto parlando un po' così, naturalmente, però comunque questa canzone è forse la sua interpretazione migliore in Caravana Sereia Bloom, e forse anche la migliore perché la cicogna ha un amore viscerale per il padre di questo progetto musicalmente. Una canzone che si chiama Pagliasu, il pagliaccio, che è stata scritta dal sambista dall'anima nera e triste, proprio la persona che incarnificava il samba triste e nero nel secolo scorso, Nelson Cavaquinho. E dunque il pagliaccio, il pagliasu si dovrebbe pronunciare, il pagliasu che sta lì, che non vuole quasi più lavorare, che lo devono così ritirare su al palco per lavorare, perché deve far divertire la gente. Afastar do palco por alguém, volta que a plateia te reclama. Sei que choras, palhaço, por alguém que não te ama. Sei que é doloroso um palhaço se afastar do palco por alguém. Volta que a plateia te reclama. Sei que choras, palhaço, por alguém que não te ama. Enxuga os olhos e me dá um abraço. Não te esqueças que és um palhaço. Faça plateia gargalhar. Um palhaço não deve chorar. Só che piangere pagliaccio per qualcuno che non ti ama, è bene o male la traduzione del testo. Si asciuga gli occhi e mi dà un abbraccio, ma non dimenticare che sei un pagliaccio e devi far ridere il pubblico, perché un clown non deve piangere. Questa è bene o male la traduzione dal portoghese di questa canzone del Pagliaccio, scritta appunto da Nelson Cavaquinho e da altri due che non mi ricordo il loro nome e non ho manco il tempo di andarvele a cercare in diretta. Comunque andiamo avanti cercandoci un'altra canzone che è ben collegata e andiamo proprio a sentire il progetto solista del marito di Guy Amabis, o Amabis, che ha pubblicato lo scorso anno il suo primo album, diciamo, solista, che si chiama Memorias Lusos Africana. E lui più che altro è molto orientato verso le musiche del cinema, Amabis, e la memoria saluso africana, un po' già dal titolo ci fa capire la sua intenzione, è proprio quello di andare verso le sue radici portoghese, lusofono, e verso le sue radici nere africane. All'interno di questo album c'è anche il batterista paulista Kurumin, batterista ed elettronicista, come mi piacerebbe chiamarlo, Kurumin, e c'è un'altra cantante, Tulipa forse si chiama, però c'è in un paio di tracce anche la sua moglie, c'è anche Seu, e questa è veramente una delle tracce più intime e belle di questo Memorias Lusos, Luso Africanas, che si chiama Dose de Mora, che dovrebbe significare, se la mia memoria non mi tradisce, qualcosa tipo un dolce ritardo. Memoria all'uso africana, dunque, in questa canzone che vede anche ai cori quel Siba Veloso che ci siamo ascoltati la scorsa settimana con il suo progetto appena uscito Avante, lui nordestino, pernambucano, e grande regione che, come abbiamo già detto, ha dato i natali ai più grandi generi della musica brasiliana e anche, insomma, anche i padri del samba, diciamo così, che è poi diffuso in tutto il Brasile, quasi tutti arrivano dal nord-est. Comunque, proprio lì ritroviamo e iniziamo subito a tagliare la playlist, perché anche questa sera abbiamo iniziato in ritardo la trasmissione. Comunque è uscita da poco una compilation, o forse lo scorso anno, non proprio poco, che si chiama Psychedelic Pernambuco, il Pernambuco psichedelico, perché su per giù negli anni 60-70, quando a Rio e nel sud usciva il tropicalismo, Erasmo con Veloso, con João Gilberto, anzi no, João Gilberto della Bossa, con Gilberto Gil. C'era quasi una sorta di risposta nordestina e c'è stato questo approccio proprio di psichedelia occidentale, di personaggi che si sono innamorati della psichedelia, soprattutto di matrice americana e anglosassone, quindi della Gran Bretagna, ma insieme c'era anche un amore così abbastanza forse superficiale per l'India. In effetti ci sono diversi artisti e canzoni che in quel periodo usavano il sitar, e comunque è stata una sorta di una sorta di genere abbastanza dimenticato al di fuori di quell'area di Recife, del Pernambuco. Non è che se ne è sentita molto parlare, anche perché nella dittatura brasiliana, che va super giù dal 65 all'85, cioè questo genere era proprio represso. Uno dei suoi più grandi autori, insomma, per registrare il suo album se ne è dovuto scappare nella foresta per registrarlo. Comunque andiamoci a ascoltare Geraldo Azevedo e Alceu Valença. Questa è una grande canzone che si chiama 78 Rota Coes. Strana come sapore per essere una musica brasiliana questa, che si chiama 78 Rota Coes. E comunque saltiamo di compilation in compilation. Un'altra che dal Pernambuco psichedelico invece andiamo proprio alla sua musica, la musica del Pernambuco, volume 3 questa volta. La scorsa settimana ci siamo ascoltati What's Happening in Pernambuco, un'altra compilation, questa volta è quella volta edita dalla Luaca Bop, questa volta invece dovrebbe essere pubblicata da quel Brazil Music Exchange di cui vi parlavo la scorsa settimana, che insomma dà molto tiro a scambiare, a far conoscere la musica del loro paese all'estero e soprattutto naturalmente verso i paesi occidentali. Allora andiamo di corsa, facciamo già partire la canzone sotto. Per queste ultime due tracce parliamo un'altra lingua, parliamo di Forró, che come vi ho già anticipato la scorsa settimana e anche in passato, un genere di musica da ballo, di danza molto molto popolare in tutto il nord-est. sustento, trouxe a luz em um momento de total escuridão, preparando passo a passo o candeeiro Na luz do carbureto, chissà cosa vorrà dire il titolo di questa canzone. Na luz probabilmente è una luce, ma il carbureto che cos'è? Un carburatore? A voi ascoltatori l'ardua domanda dal portoghese. Comunque questo è forro, o forro come dicono loro i brasiliani, no, questo genere che prima di diventare proprio un genere musicale era una festa iniziale, e che ci sono un po' due correnti, due scuole di pensiero. Una un po' fantasiosa è che il forró arrivi da forol, che era per tutti, e questo perché all'inizio del Novecento da quelle parti c'erano gli inglesi che erano giunti a costruire le ferrovie, e questo forol praticamente doveva essere scritto all'ingresso delle sale da ballo nel weekend, perché così loro, ecco, si scialavano, si riposavano dalla settimana e potevano entrare a ballare. Però questa è un po', ecco, un'ipotesi abbastanza azzardata, mentre l'altra, che è del ricercatore storiografo, Luis da Camara Cascudo, è che questo termine arrivi da forrobodo o forrobodo, che è un'espressione che in un dialetto africano, non so quale nello specifico, significa sia trascinare i piedi che piuttosto festa e casino. E infatti la festa e il casino è proprio quello che sentiamo nel forró, di cui la sanfona, che è la fisarmonica, il triangolo, che è quello che battiamo noi, il triangolo tin tin tin, e la zabumba, che è una percussione, erano proprio gli elementi stilistici iniziali e principali di questo genere, che poi al suo interno racchiude un po' altre sottogeni, altre correnti, come ad esempio il baião, che si caratterizza particolarmente per suonare un ritmo che si chiama lundu, un'integrazione tra un ritmo africano e portoghese, oppure lo shashadu o il coco, di cui vi ho parlato già il giovedì scorso, fusione molto pregna di ritmi africani e indigeni. Allora, andiamoci ad ascoltare l'ultima canzone prima di parlare con dei compagni che sono arrivati in studio, dei Matuto che arrivano da New York. Sì, sicuramente sì, non mi ricordo, non fate affidamento, però comunque non sono brasiliani, sicuramente c'è qualche brasiliano al suo interno, ma loro non arrivano dal Brasile, arrivano da New York, questi Matuto che fanno una sorta di mezcla, una sorta di pachanca, tentando proprio di mescolare il carnevale brasiliano e il forró principalmente all'interno dei loro suoni con il blues e più che altro con il folk nordamericano, il suono degli Appalachi, possiamo leggere nel loro sito. Quindi bluegrass, e forró, oppure una palude di rock con il maracatu all'interno. Andiamo ad ascoltare, alcune canzoni sono veramente interessanti, questa è una delle più brasiliane, per come dire, si chiama Sanfoneiro Bebo e prevede proprio, insomma, l'uso di questo genere del forró. Eta, eta, eta, eta, sanfoneiro tava bebo, começou-se a trabalhar. Eta, eta, eta, eta, sanfoneiro um forró. A pisada tava quente, sanfoneiro cheio dos pau, cantava bem diferente. Dizia ele, me pague um qualquer qualquer, que amanhã eu vou lá hoje, chego lá quando puder. Eita, eita, eita, eita, sanfoneiro tava bebo, começou se atrapalhar. Travada, lasca, lasca do lasqueira, pingo, ponte, pontilhão, parte, parte do imparteira. No fim da festa, maluco, uma vontade imensa, qualquer coisa, a mesma coisa, só muda a diferença. Eita, eita, eita, eita, sanfoneiro tava bem, começou a se atrapalhar. Siamo arrivati alle 22.02, abbiamo ancora un quarto d'ora perché ci siamo spostati dalle 9 alle 9 e un quarto, facciamo 9 e un quarto, 10 e un quarto, probabilmente questo è il nuovo orario, e dedichiamo quest'ultimo quarto d'ora a raccontare una cosa, un bel evento che avrà luogo tra poco, e per questa occasione ci hanno raggiunto in studio due compagni, Gian Michele e Gian Paola. Benvenuti a Radio Onda Rossa, ragazzi. Ciao, grazie. Eccolo qui. E lui è Gian Michele, naturalmente invece Gian Paola è lontana dal microfono e non vuole parlare, quindi poi vediamo se riusciamo a coinvolgerla. Comunque loro sono qui perché ci devono parlare di una tradizione che unisce il mondo e che avrà luogo tra poco, il 4, il 5 e il 6 maggio. Una bella storia, un bel evento, e io lancio subito la parola a Gian Michele perché non mi sono preparato niente. Lui infatti andrà a ruota libera e presenterà questo evento in cui insomma verranno coinvolti un bel po' di persone, di progetti, di belle storie. Se intanto vuoi dire qualcosa ai nostri ascoltatori, così li introduciamo. Sì, che praticamente questo evento nasce da un'idea della Società Italiana Tamburi a Cornice, che è un'associazione di promozione sociale che è nata circa 5 anni fa, in concomitanza con la nascita anche un po' del meeting. E nasce dall'idea che comunque in Italia c'è questa grande cultura, tutti lo sanno, del millenaria, cioè le stesse rappresentazioni iconografiche risalgono a prima di Cristo, cioè abbiamo un patrimonio enorme. E dalla fusione delle idee di vari musicisti, tra cui anch'io, nella coordinazione artistica di questo evento, abbiamo pensato che alla fine eventi che parlano di pizzica, di tamburriata, di tarantella, ce ne sono tanti, però che realmente affrontano l'argomento del tamburo in quanto tale, del tamburo tradizionale italiano, che è una vera e propria cultura, forse un po' soffocata da quella più nota, quella diffusa in tutto il mondo della cultura classica, no? I giapponesi scrivono forte e mezzo forte in italiano, per dire. Sì, certo. No? La nostra cultura tradizionale è stata un po' più messa da parte. In altre tradizioni, per fare un esempio, anche più recenti, il tamburo tradizionale viene saltato per la qualità che ha e per la tradizione che porta. In Italia questo succede molto meno, a fine la zampogna, il concetto è lo stesso. In Galizia viene studiata nei conservatori la gaeta galiziana, in Italia viene additato come lo zampognare, il pecoraro di Natale, certo, quando comunque è uno degli strumenti principe della nostra tradizione. E quindi da questa analisi semplice di questo grande bagaglio culturale, storico, ma anche delle tante differenze che ci sono, a differenza anche di tante altre culture che comunque forti e belle, abbiamo pensato di creare un evento che non sia il festival della musica tradizionale standard, dove si incontrano le tradizioni e comunque ha il suo peso in qualsiasi forma venga sviluppato, ma un evento che si sviluppi proprio attorno a quello che è lo strumento in sé, che ha dato vita poi a tutte queste tradizioni e questo repertorio, questa cultura tradizionale enorme. E quindi in questo caso quello del tamburo a cornice. Il tamburo a cornice tradizionale nostro, che è la tamburra, il tamburello. Che è lo strumento principale, ma rappresenta in qualche modo, no, il ritmo, una delle forme musicali. Sì, esatto. Italia penso che rappresenti proprio nello specifico la percussione per eccellenza. Esatto, che però appunto per questo discorso di cui sopra, del questo è un problema italiano sicuramente, di alcuni stati europei, quello che insomma abbiamo lasciato andare le nostre musiche popolari, soprattutto dal dopoguerra fino agli anni 90, però ecco, eventi come il vostro, come quelli che stanno rinascendo adesso negli ultimi anni, sembrano un po', no, riprendersi, quasi andarli a ricorrere dietro, perché abbiamo capito che stiamo veramente facendo una grande cazzata. Sì. E noi appunto la cosa che abbiamo notato, essendo anche degli addetti ai lavori, tra virgolette, cioè essendo mani e piedi dentro all'argomento, abbiamo pensato che era fondamentale creare un momento dove tutta la grande tradizione del tamburo a cornice italiano, che assume, che poi c'ha, come avviene anche nei dialetti, ha nomi e caratteristiche organologiche differenti, si andava esaltata. Quindi abbiamo pensato a questo grande evento, che era il meeting, pensato grande, partito piccolo, che è il meeting internazionale del tamburello. Ecco. Meeting internazionale del tamburello, che è giunta alla sua sesta edizione, perché le prime cinque le abbiamo, sesta edizione di cui le prime cinque le abbiamo effettuate in un centro sociale che con il tempo è diventato uno dei piccoli templi della musica tradizionale a Roma, che è il CIP Alessandrino, ed era una delle date di questo festival che si sviluppava durante l'anno. Quest'anno il comune ci ha riconosciuto uno spazio, ecco, uno spazio al Laurentino. Ah, finalmente sono arrivate le istituzioni. Le istituzioni, però ovviamente ci hanno dato il treno, ma non ci hanno dato il biglietto, perché non abbiamo, cioè ci hanno dato lo spazio, ma i soldi comunque per sviluppare un evento all'esterno tutto autofinanziato come prima, con la differenza che appunto dobbiamo fare i conti con tutto quello che è l'istituzionalizzazione, la SIAE, l'EMPALS, in questo abbiamo trovato però per fortuna una grande risposta da tutti gli artisti e tutti coloro che collaborano con noi in un intervento appunto di capendo qual era la necessità, il valore anche dell'evento, e quindi grande collaborazione no profit da parte di tutti. Bene. Si è creato un bel gruppo di lavoro e infatti ci sono delle persone che io vorrei tanto ringraziare, da cui Giampaolo Abellini, che è qui potresti presente. Anche salutare la nostra compagna Giampaolo, ecco, adesso gli apro ciao il microfono a tutti. Ah, eccola qui finalmente. Francesca Ragno che ci sta curando l'ufficio stampa, Ilaria Caruso che ci cura tutta la parte ci sarà una sala video di proiezioni video. Ecco, passiamo nello specifico a come verrà organizzato questo meeting internazionale del tamburello. Volevo aprire una postilla proprio velocissima di 30 secondi. Nominavi la SIAE, questa maledetta, e io voglio dire a chi ancora non lo sa, magari lo sapete tutti, non è l'unico canale, no? Stanno uscendo delle realtà alternative con cui pubblicare degli album, con cui insomma fare veramente della musica indipendente e non dover pagare questa cosa qui, che mi sembra veramente una cosa settaria e fascista. Che ad esempio ci sono altri circuiti come ad esempio Patamu, che con una cifra irrisoria puoi pubblicare e prendere tutti i diritti senza passare dalla SIAE. Sì, comunque chiuso questo, la grande spirale praticamente. Che anche cioè, nella relazione che ho avuto, anche avvocati hanno avuto difficoltà nell'entrare nel mondo SIAE. Io lo rapporto allo Stato Pontificio. Sì, perché poi purtroppo pochissimi artisti campano tutta la vita con una canzone tramite la SIAE, e i veri musicisti invece purtroppo no. Tornando a quello che organizziamo allora innanzitutto 4, 5 e 6 maggio a Roma al Centro meeting Culturale Elsa Morante a Laurentino, un centro culturale molto bello, nuovo, inaugurato a giugno. E ci saranno questi tre giorni, di cui il 4 partirà dal tardo pomeriggio, e in questi tre giorni ci saranno 13 seminari dalla mattina alla sera, tranne il venerdì che si inizia dal pomeriggio per questioni appunto che la gente lavora. Tutti naturalmente incentrati sul tamburo. Sul tamburo e sulla danza, alcuni sulla danza, perché ecco, la danza movimento e ritmo. E ritmo. Ecco, questo è la... Esatto. E 13 seminari, di cui uno molto importante che ci tengo a sottolineare, che è quello di costruzione di tamburo, che viene sviluppato in tutta la giornata di domenica per riappropriarsi appunto di questa capacità artigiana di costruire il proprio strumento, che poi resta a chi lo costruisce. Comunque ci sarà un po' di tutto, da seminari di pizzica tradizionale, da seminari di conna col sul tamburello italiano nelle chiavi più moderne, il tamburello moderno nella chiave di interpretativa di Andrea Piccioni, ma anche appunto la tamorra, ecco, ricordiamo Andrea Piccioni di... che è uno dei più quotati internazionalmente, sì, anche sì, esatto, di percussionisti, sia per la tradizione ma anche per quello che è l'idea di riattribuire allo strumento un'identità di strumento a tutto tondo, non al servizio sempre semplicemente della tradizione, ma anche come strumento che può essere applicato anche in altri generi musicali. Ecco, ad esempio mi veniva da fare un paragone, scusa se ti rubo la parola, no? Ad esempio prima abbiamo ascoltato la musica brasiliana, il nord-est, dove c'è un tamburo a cornice che si chiama il pandeiro e che è fondamentale nel samba e nella musica brasiliana. Esatto. E lì ad esempio in Brasile ci sono musicisti che si chiamano Jackson do Pandeiro, cioè lui lascia il suo cognome per acquisire quello del pandeiro, perché è uno dei padri della musica brasiliana e viene riconosciuto in tutto il paese, no? Viene osannato con questa sorta, con questo semplicissimo strumento. Cosa invece che poi è stato, che abbiamo... anche, è stato anche uno dei padri di quello che è l'applicazione del pandero alle ritmiche moderne, uno dei primi che ha applicato il pandero sul funk per esempio, ecco, che poi è stato evoluto da altri, ma parliamo comunque di che è uno strumento che appunto gli è stata data tutta questa, che ritroviamo un po' in tutto il mondo, sì, naturalmente, sì, qui l'abbiamo avuto l'anno scorso un bel seminario di pandero al meeting. E oltre a questo poi ci sono tutte le sere ci sono dei concerti che attinenti che partono dal venerdì con l'orchestra Takadum, che è un'orchestra di percussioni in cui ci sono parecchi tamburi a cornice, dove vengono, ecco, diciamo un po' di artisti che parteciperanno. A me un paio mi interessano sicuramente molto, da vedere. Comunque c'è anche Fabio Trico Tricomi che aprirà i percussonici. Fabio Tricomi è un grande ricercatore siciliano che è praticamente colui che è riuscito a far rivivere il tamburo tradizionale siciliano. E, oltre a fare un seminario, farà un intervento musicale durante i concerti. Aprirà poi il concerto, questo è il venerdì 4, dei percussonici, ecco. Che invece è un altro modo di vedere il tamburo, perché loro sviluppano un concerto tutto percussivo dove c'è didgeridoo, un set di giungiun e piatti e tamburello e marranzano, più voce, però fanno altro genere, tipo ragamuffi, reggae. Ecco, sì. Sono uno dei gruppi che abbiamo passato già qui alla Cicogna Nera, è sicuramente uno di quelli che mi interessa di più per il loro tentativo di fare quasi un melting pot tra la tradizione popolare italiana e altre musiche. L'uso del didgeridoo è l'apripista, ecco, in qualche modo. Sì. E, loro venerdì, diciamo. Poi il sabato abbiamo altri grandi nomi, no? Sto leggendo in questo momento. Si inizia con il Trio Vesevo, che è un gruppo di un trio della Campania che sviluppano tutto un discorso sulle tarantelle campane e quindi come la lingua come la musica a seconda la lingua, il dialetto, a seconda delle varie aree. All'apertura loro seguirà Ugo Maiorano con Nando Citarella, che è uno dei nostri DJ resident. Ecco, questa sì. Mi è proprio piaciuta. Sì, perché lui c'è sempre ed è una... per nostra richiesta, ed è una persona eccezionale, uno dei più grandi artisti che ci sono in Italia, che portano avanti appunto il concetto di tradizione anche nell'applicazione appunto di Idea World, perché certo. Le sue musiche sono molto si basano sull'idea di contaminazione con musiche flamenche o di ritmi latini, eccetera. A questo secondo intervento poi segue la chiusura finale di Enza Pagliara con il suo nome. Concerto, che è un grande nome, non ha bisogno di presentazioni. Sì. Andiamo anche a concludere con i concerti. I concerti della domenica, invece la domenica c'è un'apertura di Lavinia Mancusi, che qui avviene più o meno in musica avviene quello che avviene un po' con Nando Citarella, cioè una contaminazione in chiave world dei ritmi tradizionali italiani, dove appunto c'è questa apertura da parte loro. Poi il quartetto di tamburelli di Tamburello Caffè, che è un progetto abbastanza innovativo, io ne faccio parte, non ne dovrei troppo parlare. No, ma parliamone pure. In questo quartetto noi abbiamo fatto questa scelta di dare vita ai ritmi tradizionali utilizzando solo tamburi e voce e lavorando molto anche su quelle che sono appunto idee di contaminazione, ma tutto su tamburo e voce soprattutto, e quello che è il grande spettro percussivo delle percussioni tradizionali italiane, quindi che è enorme, è anche sottovalutato, tipo putipush, tavaias, ecco. Tricaballacca, cose che vengono nominate come una cosa ridicola, ma che esatto. Poi molto nel concreto rappresentano un po' quella che potrebbe essere la clave nella rumba, cioè certo, degli strumenti che poi sono fondamentali per lo sviluppo del ritmo collettivo. Ecco, ad esempio il sottoscritto ha conosciuto prima la cuica, no? Che arriva dal Brasile, piuttosto che il putipù, che è uno strumento che abbiamo qui dietro l'angolo e che però ci ho messo 34 anni a scoprirlo. Sì, questo poi molto la dice lunga su... E viene utilizzato anche in vari modi, ad esempio in Molise usano i putipù, li chiamano bufù in dei gruppi dove addirittura li accordano, quindi sì, è uno strumento che appartiene alla nostra grande tradizione. Va bene. E allora, in chiusura c'è la Zampogna Orchestra, che è un altro grande progetto che noi abbiamo voluto, anche se non ci sono tamburelli, ma proprio per questo discorso della tradizione ancestrale che portano, e questa idea anche di rielaborare lo strumento in una chiave moderna, perché il loro lavoro è appunto quello di portare sulla zampogna temi che non appartengono alla tradizione. Perfetto, allora dobbiamo veramente chiudere, siamo un po' in ritardo, in Octibus Panis sta già attendendo, e ripetiamo allora il 4, il 5 e il 6 maggio, il centro è quello di Elsa Morante a Laurentino, la via precisa non la sappiamo. Piazzale Elsa Morante. Ah, piazzale proprio Elsa Morante. Dunque, un'orgia, mi verrebbe da dire, di seminari sul tamburo. Solo una cosa, certo. Chiunque vuole informazioni dettagliate può andare tranquillamente sul sito www.tamburiaccornice.com e trova tutto. Ecco, perfetto, perfetto. Quindi seminari, mostre e dalle 22 su per giù concerti, no? Sì, sì, esatto. Perfetto, allora io ringrazio Gian Michele e Gian Paolo che sono venuti qui a presentarci questo evento che rappresenta veramente l'Italia intera per quanto riguarda, no, questa tradizione che dobbiamo cercare di riacquisire e poi quando l'abbiamo riacquisita magari iniziare a trasformarla e contaminarla con tutto quanto, come anche il tuo gruppo o altri gruppi che saranno lì come i Percussonici stanno già tentando di fare da alcuni anni. Noi ringraziamo voi tantissimo, tutta l'associazione vi ringrazia. Perfetto, grazie ragazzi, la Cicogna Nera vi dà appuntamento a giovedì prossimo alle 9:15, tra poco in Noctibus Panis.